Alleluia. Nello spirito io canterò. Nello spirito io canterò. Nello spirito io adorerò Gesù. Gesù. Tu sei il mio Salvatore. Tu sei il mio Redentore. Nello spirito io canterò. Nello spirito io adorerò Gesù. Alleluia. Alleluia.